gli amori, lo spasso, il fracasso, la sfornia, i cuori, la mensa imbandita, la vita, la bionda già parte, la bruna già arriva, spalanco le porte con grazia, con gusto, ecco l'arte, ignanto. Sbarazzino, sbarazzino, dove vai? Vado pel mondo, e lo giro quanto è tondo, sospirando, strimpellando, sghignazzando. La canzone del destino. Io vivo di nulla, di sdegni, di pegni, non è più una culla, non è più una fiamma, la mamma, la sola che amai, mi amò per un giorno, partì, l'aspettai, ancora ne aspetto il ritorno, la sola. Dove vai? Vado pel mondo, allo giro quanto è tondo, sospirando, strimpellando, sghignazzando. La canzone del destino. Giro il mondo quanto è tondo, sospirando, strimpellando, sghignazzando. La canzone del destino.